Signore e signorine, si passa in salone per la rottura della pignatta. Lui stesso offrì il braccio a donna Clementina de Camillis, dei marchesi di Latiano, vecchia grinzosa, superbiosa, che tutti veneravano, che chiamavano con rispetto la marchesa, senz'altro, come se non ve ne fosse che una sola al mondo, e che dava un'aria aristocratica ai saloni di don Giuseppe Froio. Nel salone le sedie erano preparate come per il cotillon, a coppie di uomo e donna, ma non si pensava più a discorrere, ad amoreggiare, a filare, a stringersi la mano di soppiatto. Le ragazze erano distratte, prese dalla curiosità e dal desiderio, arse dalla voglia di rompere la pignatta per prendere il famoso braccialetto. In mezzo al grande circolo vuoto, dove tutti gli occhi si fissavano, Federico Pietraroia e Mimì Falabella, un factotum di donna Franceschina, portarono, tenendola per i manichi, una grossa pignatta rosso-bruna, di quelle che si cuociono nelle fornaci di Sessaurunca, insieme ai tegami di cui tutta Napoli si fornisce. La larga bocca era turata da un pezzo di tela bianca legata con uno spago. I due giovanotti fingevano di fare uno sforzo nel sollevarla. Un mormorio nacque. «È pesante! È pesante, pesante!» Gelsomina Santoro, elegantissima, con un vestito verde scuro, tutto ricamato di oro ai polsini e al goletto come un ufficiale, aspettava con un fazzoletto di seta rosso e un manico di scopa in mano. Il primo uomo da bendarsi fu don Giuseppe Froio, che si prestò volentieri. Bendato, gli fecero fare un giro della sala, gli consegnarono il manico della scopa, poi lo lasciarono solo in direzione della pignatta posata per terra. «Guarda voi, don Giuseppe!» «Piegate a destra, Don Peppì! Attenzione, attenzione, attento, Don Peppo!» Lui, dopo aver tastato un po' il terreno, alzò il manico della scopa con due mani, come una clava, e diede giù un gran colpo, ma mancò un pelo, solo un manico della pignatta fu rotto. Scoppiarono risate, applausi, proteste, commenti. Le donne specialmente erano eccitate. Mimì Falabella, l'altro padron di casa, come era chiamato, si faceva bendare lungamente da Gelsomina, tanto che le sangè sogghignarono tutte e cinque. Ci vede, Mimì! Dalli forte, Falabella! Uno, due, tre!» Ma Falabella, che doveva sapere esservi una burletta nella pignatta, diede un gran colpo di fianco per terra. Valeva meglio far ridere per un colpo sbagliato, anziché per il premio da dover subire. E il turno degli uomini seguitava. Tutti chinavano il capo sotto le mani bianche e gentili di Gelsomina Santoro, che annodava loro il fazzoletto dietro la nuca, nel mezzo del circolo. Alcuni esitavano. Cercavano di orientarsi, riflettevano, poi finivano per dare un colpo lontanissimo dalla pignatta, fra i ghigni dell'assemblea. Alcuni si decidevano subito, davano un gran colpo a vuoto, strappavano il fazzoletto subito come se avessero voluto vedere i cocci della pignatta infranta. Alcuni davano due o tre colpi brevi, furiosi, infrangendo il regolamento che permette un colpo solo. Alcuni davano il colpo per disimpegno, scettici, stringendosi nelle spalle. E l'allegro furore del pubblico cresceva. Donna Franceschina si sganasciava dalle risa, rumorosamente, quando Gelsomina annodò il fazzoletto rosso intorno alla grossa testa di Cicillo De Marco, il gobbo. Fu un minuto di grande silenzio, improvviso, strano. Il gobbo non pensò, non aspettò, non prese le sue misure. Diede un colpo solo, rapido, giusto, colse la pignatta nel mezzo e la infranse di netto. Un urrà salutò la vittoria di Don Cicillo, tutto sorridente, lusingato, e il premio era triplice. Un berretto da notte di maglia col fiocchetto bianco, una larga tabacchiera di cartone, un bastone col pomolo d'oro, che era poi un bastoncino da un soldo su cui era infilato un pomodoro. Il gobbo mise il berretto coraggiosamente, prese la tabacchiera, il bastone umoristico e, raccolti due pezzi della pignatta, andò in giro offrendo agli uomini gli altri doni. Erano fave secche, ravvolte nelle cartine dorate, come se fossero confetti prelibati. Erano torsoletti di cavolo, accuratamente arrotolati nella carta piombata, azzurra, rossa, argentata, dove si mettono i cioccolatini. Erano piccole pastine annodate di nastrini colorati. Erano castagne infornate, chiuse nelle cartucce arricciate. Erano borsette di seta piene di fagioli secchi. Erano uovi ripieni di farina, che si rompevano fra le mani. E chi strillava, chi protestava, chi rideva, chi portava in giro il suo dono, tutti erano d'accordo sullo spirito di Don Giuseppe e di Donna Franceschina. Non si poteva combinare le cose meglio di così. Ci saranno voluti 2 mesi per preparare tutte quelle sorprese. E quel pomodoro sul bastone che Cicillo De Marco portava così fieramente in giro era da schiattare dalle risa, non è vero? Concettella Sangè, tutta accesa, cercava ad ogni costo di accaparrarsi il gobbo De Marco, ma costui le volse le spalle e la sua scelta era già fatta. Dal carnevale, Concettella non potrebbe ricavarne nulla. Si contentò di passargli la mano sulla gobba, come per caso, per trarne buon augurio. Fra l'isolamento della società, la pignatta destinata alle signore fu portata in mezzo alla sala, rispettosamente da Federico Pietraroia e da Mimì Falabella. E fingevano di portarla senza fatica, come se fosse lievissima. Le donne passate in prima linea, avendo rigettato indietro gli uomini, non la perdevano d'occhio, come se fosse l'urna della loro fortuna. «È vuota, è vuota!» mormoravano gli uomini per malignare. Tutte sognavano il braccialetto d'oro con uno zaffiro, si diceva no, con uno smeraldo, e tremavano che una delle prime rompesse la pignatta. Invero, la prima fu donna Clementina De Camillis, dei Marchesi di Latiano, la vecchia stizzosa che si arrabbiò contro Federico Pietraroia perché le stringeva troppo il fazzoletto, che tastò col manico della scopa dove la pignatta non c'era e che per poco non ruppe la testa di Mimì Falabella, dandogli addosso il manico della scopa, che guardò la gente con un cipiglio di sibilla offesa e si ritirò al suo posto molto scontenta. Neppure donna Franceschina, la seconda, ruppe la pignatta, ma non aveva voluto romperla per creanza, essendo la padrona di casa. Doveva vedere bene dov'era la pignatta, dicevano le Sangè. Mimì l'aveva bendata con tanta larghezza. La prima sorella Fusco colpì la pignatta, ma la mazzata era data troppo debolmente e non arrivò a infrangere la creta. «Ci vuole il ferro! Una cura di ferro, signorina!» «Oh, la china! Un poco di decotto di china!» La seconda sorella non fece che sgretolarla. La pignatta pareva di ferro. Tutti acclamavano la saldezza della pignatta. Emma Frogio, per causa del suo tacco, mancò il colpo. Tornò zoppicando al suo posto, malcontenta, quasi piangente. Caterina Borrelli si raccomandò a Federico Pietraroia che non stringesse troppo il fazzoletto, tanto ella era miope. Bastava levarle gli occhiali per non farle vedere più nulla. Diede un colpo a vuoto così violento che la mazza della scopa si spezzò in due. Bisognò procurarne un'altra. Donna Franceschina, che se ne intendeva, scappò a prenderla in cucina. Come la pignatta restava sempre incolume, sotto i colpi troppo forti, ma lontani, troppo vicini, ma deboli, delle donne, l'ansietà cresceva. La lite fu tremenda fra le 5 sorelle Sangè e Federico Pietraroia. Una pretendeva che le avesse ammaccato un occhio, l'altra diceva che le avesse strappato i capelli dietro la nuca, la terza soffocava sotto il fazzoletto e aveva l'abitudine di respirare dal naso. Tutte dicevano che avrebbero potuto rompere benissimo la pignatta se non fosse stata la mala volontà di Federico Pietraroia, che aveva le sue preferite. La lite si fece grave. Carluccio Finoi e Rocco Marzolla dovettero intervenire. Infine non rimanevano che Annina Casale e le 2 sorelle De Pasquale. Mettendole il fazzoletto ad Annina, Federico le mormorò qualche cosa all'orecchio, ma ella non intese bene. Piegò a sinistra, diede il colpo sulla spalliera di una sedia, spezzandola. Federico fece un gesto di disappunto. Le Sangè le sorvegliavano. Infine, alla piccola De Pasquale, una biondinetta così carina con la sua aria ingenua, l'ultima, la parola fu sussurrata chiaramente: «Donna Ida, piegate a destra!» La pignatta crepitò, si aperse in due. Gli uomini applaudirono. Ida De Pasquale, quasi ballando di gioia, afferrò un pacchettino di carta bianca, il premio. Era un bracciale d'argento smaltato nero con la parola «Ricordo». Una cosetta graziosa, ma che valeva 20 franchi, ma tutte sporgevano la testa per vedere lo zaffiro, lo smeraldo, il brillante, la perla. E la piccolina bionda portava in giro gli altri regalucci, impacchettati misteriosamente, suggellati con ogni cura. Erano ventaglietti di carta da mezzo franco l'uno, portamonete di falso cuoio di Russia, pallottoline di velluto per spilli, Uovicini di legno scolpiti con un ditalino di metallo bianco, dentro cornicette di cartone dipinte per fotografie. Vasellini di vetro azzurro per stuzzicadenti, pacchetti di polvere di riso, bottigline di essenze odorose. Tutto un fondaccio di magazzino di chincaglieria che faceva andare in estasi quelle ragazze. Portando in giro questi doni, Ida De Pasquale mostrava con un piglio grazioso il suo braccialetto di argento. Tutte lo trovavano bello, sospiravano di non averlo avuto, malgrado la pochezza del suo valore. Le Saint-Germain schiattavano. Una aveva avuto due bottoni da polsini di similoro, un'altra una scatoletta di polvere per i denti, la terza un calendarietto, la quarta un'immagine del Redentore e l'ultima, infine, un pacchetto di forcinelle dalle punte d'acciaio. Ma che si burlavano di loro? Non avevano visto che Federico aveva detto la parolina a Ida De Pasquale? E Ida non lo aveva fatto apposta a portar loro gli scarti? Che modo di trattare la gente era questo? Ma su tutti quei lieti e collerici ragionari, sempre tumultuanti, passò come pacificamente un vassoio di biscotti fatti in casa, seguiti da un vassoio di bicchieri pieni di lacrima Cristi. Vino che si faceva nella grande vigna di Ottaviano di Don Giuseppe Froio. E, placati gli spiriti, i giochi di penitenza cominciarono dal serio e posato gioco. La chiave gira a quello tumultuoso e sfrenato della posta, col gran finale di galoppo parte il treno per casa del diavolo. 5. Il rombo vesuviano cominciò il giorno 22 aprile 1872 all'una pomeridiana. Era un rumore sordo, sotterraneo, ma continuo, a cui si univa il tremore dei vetri mai cessante. La giornata era purissima, di una grande dolcezza primaverile. I napoletani si affollarono in tutte le strade donde si vedeva il Vesuvio, salirono su tutti i terrazzi, si arrampicarono su tutte le soffitte. Comparirono a tutti gli abbaini. Sul Vesuvio si innalzava una lunga e fitta nuvola bianchiccia della forma di un pino, lievemente colorata di rosa alla base, che posava sul cratere. Altro non si vedeva. Ma non diminuiva il rombo, per cui pareva tremassero tutte le case napoletane, da Posillipo al Borgo Loreto, dalla collina del Vomero alla via di Porto. Il boato pareva venisse dalle viscere della terra, sotto i piedi dei viandanti. Il direttore della scuola normale entrò nella seconda classe dove erano anche Annina Casale e Caterina Borrelli. Disse che per circostanze eccezionali quel giorno la scuola si chiudeva all'una e non alle tre. Andassero pure tutti a casa. Innanzi alla porta, nella via di Gesù, vi fu uno sbandamento di 180 ragazze che tornavano a casa tutte stupite di quella vacanza. Si incontrarono con gruppi di studenti che venivano dall'università, dove il rettore aveva sospese le lezioni 2 ore prima dell'usato. Nella chiesa della Madonna dell'Aiuto, dove essendo mercoledì le sorelle Saint-Germain sentivano la predica in onore di Maria Immacolata, il predicatore si fermò, abbreviò della metà almeno il suo discorso, fece dire alle donne la preghiera in occasione di folgori e di terremoti e rimandò a casa tutti quanti. Nel laboratorio di fiori artificiali, dove 30 fioriste lavoravano sotto gli ordini della signora Malagrida, si sparse il terrore. Una delle ragazze aveva la madre a Sant'Anastasia, villaggio sotto il Vesuvio. Gridava, piangeva, si dimenava. Non fu possibile trattenere più le lavoranti. Ebbero la mezza festa. Andarono a casa. La signora Malagrida se ne tornò al suo appartamento in via dei Fiorentini, tutta sconcertata. Nella penombra del teatro San Ferdinando, le sorelle De Pasquale, Federico Pietraroia, Giovanni la Terza e altri filodrammatici stavano provando la Lucia di Die, ovvero Onore per Onore, innanzi a mezzo teatro pieno di amici personali. Ma al cominciare del rombo, molto pubblico uscì fuori per sapere di che si trattasse. Il teatro San Ferdinando è molto vicino al Ponte della Maddalena. Il rombo si sentiva più forte, assai. Le ragazze si sentivano affogare in quell'ombra. La prova fu sospesa. In casa Iovine, dalla simpatica zoppina, vi era ricevimento quel mercoledì, essendo l'onomastico della nonna. Vi si trovavano le belle sorelle Altifreda. Vi arrivarono le galanti. Per un pezzo si scherzò sull'eruzione, sul rombo, sul terremoto, sulla pioggia di cenere, mentre giravano i gelati e giungevano ancora dei mazzi di fiori. Ma a poco la conversazione decadde. Tutti prestavano orecchio, il ballo dei vetri urtava i nervi della zoppina, quasi quasi ella tremava al loro tremito. La società si diradò. Tentando qualche ultimo scherzo, ma di malavoglia, ognuno desiderava ritrovarsi alla casa propria. Maria Iovine, quando tutti furono andati via, andò a mettersi a letto col capo fra i cuscini per non sentire il ballo dei cristalli. A tutte le persone, uomini d'affari, impiegati, lavoranti, oziosi, pareva venuta una grande furia di tornarsene a casa. Per la strada si salutavano frettolosamente, si scambiavano qualche notizia breve breve, si lasciavano con un cenno di addio, come se un grave affare li chiamasse altrove. Così gli uffici pubblici e i privati, quali volontariamente, quali per forza, rimasero deserti. Il pomeriggio pareva lunghissimo. Solo venendo la notte si poteva giudicare dei progressi dell'eruzione. Circolavano cattive notizie. Due nuove bocche s'erano aperte. Cercola e Sant'Anastasia erano perdute. V'erano delle vittime imprudenti che la sera prima avevano voluto salire sul Vesuvio. Per la via Forcella si mormorava, erano arrivate delle barelle coperte dove erano avvolti nelle lenzuola certi corpi umani terribilmente usti, ma viventi ancora, agonizzanti fra spasimi orribili. La campanella che è alla porta dell'ospedale dei pellegrini, l'ospedale dei feriti, non si fermava mai in quel pomeriggio, annunciando sempre nuove sventure. Alla sera tutta Napoli si riversò per le vie. Si aggruppò sulle terrazze, sui balconi, sulle vie alte donde il vulcano poteva essere visto. Tre grandi lave di dimensioni mai viste si riversavano dalla bocca del cratere. Una di esse cadeva sul versante opposto, minacciando il villaggio di Ottaiano, e se ne vedeva il larghissimo sviluppo alle spalle del monte. Essa illuminava lo sfondo del cielo. La seconda, in linea quasi orizzontale, discendeva verso il mare, tagliando il Vesuvio in tutta la sua larghezza, prendendo terreno a vista d'occhio. La terza, amplissima, maestosa, si svolgeva magnificamente per la china del monte. Si allargava nell'atrio del cavallo, discendeva come un fiume di fuoco, minacciava Resina, Portici e Napoli. La nuvola bianca si era diradata completamente. Il purissimo cielo stellato di quella sera di primavera era rosso, per il riflesso, sino allo zenith. Il quietissimo Mar Tirreno, nei due golfi di Castellammare e di Napoli, era rosso sino al Forte Ovo. Tre incendi, la montagna, il mare e il cielo, e insieme una pace profonda delle cose, non un alito di vento, non un rumore di onde, anzi, il mare era pieno di barche immobili nel riflesso incandescente. Soltanto le viscere della terra, commosse, tremavano, non ristavano mai. Alla marina, sul molo di San Vincenzo, che i napoletani chiamavano la banchina, fra la folla stavano le sorelle Sangè, estatiche, contemplando lo spettacolo meraviglioso, provando ogni tanto un brivido di terrore quando fra la folla correva come un ritornello: «La terza lava minaccia Napoli!» Invano Carluccio Finoi e Rocco Marzolla le pregavano di andar via. Oramai avevano visto abbastanza. Invano offrivano loro in due, con uno sforzo comune di borsa, di condurle al caffè di via Principessa Margherita a prendere una granita. Esse resistevano, prese da una grande stupefazione, dimenticavano di litigare fra loro, oppresse da quell'immenso bagliore. Correva fra la gente la storia delle vittime, una bella signora, un dottore, due fidanzati e poi un gruppo di studenti, un gruppo di contadini, due guide. I nomi non si sapevano, i giornali non erano ancora usciti. Annina Casale e Caterina Borrelli erano appoggiate al parapetto di Via del Gigante, fra la gente che restava ferma da due ore a guardare i visibili progressi dell'eruzione. Annina Casale aveva un occhialino, vedeva finanche fiammeggiare un minuto solo gli alberi come un cerino che si accende prima ancora che la lava lo toccasse. Caterina Borrelli recitava sottovoce un brano degli ultimi giorni di Pompei, di Bulwer Lytton, ma anche esse avevano un principio di costernazione nell'anima. La frase era ripetuta continuamente, continuamente intorno a loro: «La terza lava minaccia Napoli! La terza lava minaccia Napoli!» In casa di uno zio ricco, sopra un balcone del vicolo d'afflitto, in linea retta della via Sant'Erigida, donde si scopriva tutto il Vesuvio, era la famiglia Malagrida, padre, madre, figliuola, con Arturo Aiello, fidanzato di Eugenia. Erano andati da quello zio come a uno spettacolo teatrale per vedere la montagna, ma la grandiosità del fenomeno, tutto quel fuoco che si ripercuoteva nel cielo e nel mare e il senso del pericolo avevano colpito quella famiglia di persone grasse e felici. Eugenia, tenendo stretta la mano del suo fidanzato, chinava il capo come compresa di malinconia ed egli le parlava sottovoce per incoraggiarla. Pericolo non ve n'era. E poi non c'era lui che le voleva bene molto, da molto tempo, fin dall'estate scorsa, fin dalla prima sera che l'aveva conosciuta? La grassona, a cui nessuno mai aveva detto così dolci cose, tremava, il viso le ardeva, le pareva di avere addosso tutte le fiamme dell'eruzione, non sentiva più le parole che si mormoravano fra i vecchi di casa Malagrida. La terza lava minaccia Napoli, sarebbe bene di esporre San Gennaro. Sul grande terrazzo dell'Hotel de Rome a Santa Lucia, che dà sul mare, una folla di invitati si accalcava. Il padrone dell'albergo, uomo pratico, voleva approfittare della réclame che la montagna gli faceva. Il contino Geraci aveva procurato dei biglietti di invito alla De Pasquale al loro seguito e le ragazze si erano installate in un angolo, sfoggiando certi cappuccetti mefistofelici di velluto nero, foderati di rosso. Ma non avevano più gusto a ridere e a chiacchierare. Quell'incendio le imbambolava. Invano Jacobucci, la terza Pietraroia, cercavano di fare la burletta e di dare delle spiegazioni scientifiche. Esse non ascoltavano, bianche bianche sotto la molta cipria che portavano sul volto con gli occhioni tristi, pieni di malinconia, non pensando più né alla recita né all'amore. A un certo momento, mentre si diceva di quella immensa terza lava che con passo sicuro e inflessibile scendeva verso Napoli, Ida, tutta tremante, mormorò: «Perché non si espone San Gennaro?» Le ragazze della musica, le due Fusco, Elisa Costa, Gelsomina Santoro, erano riunite in casa del maestro Pantanella, che voleva far cantare loro un coro buffo. Ma la casa del maestro era al Ponte di Chiaia, in su, con un balcone, donde si scopriva tutto il golfo. Dal pianoforte attorno al quale erano riunite con altre ragazze si vedeva il bagliore immenso dell'eruzione. Esse non potevano cantare, erano continuamente distratte. Volevano correre al balcone, attirate, affascinate. Cantarono, ma le voci morivano nella gola. Le Fusco avevano una cugina a Resina, la Costa compativa quel povero don Giuseppe Froio, la cui vigna di Ottaviano era rovinata. Lo avevano incontrato nel pomeriggio, pallido, commosso, con le lacrime agli occhi, seguito da donna Franceschina che piangeva. E Gelsomina Santoro, sentendo che vi era pericolo per Napoli, domandava a tutte: «Ma perché non si espongono le reliquie di San Gennaro?» Le galanti erano sulla riva del Chiatamone, presso l'albergo Washington, insieme con Maria Iovine. L'avevano strappata di casa, dove era in continue convulsioni, dicendole che dopo tutto era meglio vedere. La circondavano mentre ella abbassava il capo, paurosa, nervosa, e sua madre cercava di rassicurarla. Ecco, se il pericolo cresceva, sarebbero partite l'indomani per Roma, per Firenze, che diamine, non si era mica ai tempi di Pompei, si poteva scappare. Anche le galanti erano un po' impressionate, dicevano anch'esse di volersene andare un po' in campagna, non per paura, ma via. Napoli non era piacevole con quelle montagne traboccanti, lava da tutte le parti. Ed erano tanto immerse in quella contemplazione che non badarono a dir male delle Altifreda che passavano in carrozza lentamente per il Chiatamone, andando verso la riviera, godendosi tutta l'eruzione. Sopra una finestrella di Capodimonte, Annina Manetta si torturava di impazienza, aspettando per uscire Pasqualino Spano, che non veniva. Nel padiglione del Divino Amore era arrivato il pungolo con le notizie. Enrichetta Caputo, che era febbricitante quella sera, lo aveva letto, aveva dato un grido ed era svenuta. La madre e Cicillo De Marco la soccorrevano. Il gobbo aveva letto il giornale, impallidendo, pensando che ormai Enrichetta era sua per riconoscenza. Egli le aveva impedito la sera prima di salire sul Vesuvio con coloro che erano venuti a prenderla. E in una villa di Posillipo i due sposi innamorati, Peppino Sarnelli e la primogenita dell'Ecofaro, belli, ricchi, buoni, guardavano l'eruzione abbracciati, non avendo paura, poiché nulla spaventa gli amanti che si abbracciano. Il pungolo dava la prima lista delle vittime. Pasqualino Spanò, studente in medicina, ritrovato il corpo. Tommaso Vanacore, guida, ritrovato il corpo. Guido Castelforte, anni 24, dottore in medicina, ritrovato il corpo abbracciato con quello della fidanzata. Margherita Fusco, di anni 18, come sopra. L'uno dovette voler morire per non lasciare l'altro. Elvira Brown, Castelforte, di anni 25, andava più avanti di tutti. Non fu ritrovato il corpo. Trovato un pezzo d'oro liquefatto, forse il serracollo d'oro, supponesi coperta dalla lava.